sono quelle le radio da fare, dai. Se non c'è il posto è un casino. Cazzo, non mi viene il nome di quell'apparecchio che mi piace. Hai detto che l'hai avuto anche tu, Claudio, DX. Che tu hai detto che l'avevi dato a me quando avevamo fatto il trasferimento di casa, che mi hai fatto il trasferimento tu. Ce l'ho io, l'Argus 5000 DX. Sì, l'Argus, sì, quello l'avevo dato a Mario. E anche il Rose. A Mario Munci l'avevo regalato perché mi avevo aiutato a traslocare da qua a Via Pascoli, da Via Pascoli a qua. Ma poca roba l'avevo portato via. Giusto quando stavano facendo i lavori qua, sì, l'Argus 5000 DX. Ho dato quello a lui e a Franco gli avevo dato la T250 per il 140 suo, per il 680 suo. Era per ricordarti che apparecchio era, vabbè, già me l'ha ricordato Marco. Quello lì me lo stavano vendendo, ero già in trattative e poi all'ultimo momento ha scritto che non lo spediva perché siccome c'era molto tempo fermo, è andato a controllarlo prima di spedirlo e gli faceva problemi al frequenzimetro, che cosa, nelle frequenze gli faceva problemi. E quindi non me l'ha dato. Vabbè, pazienza. È il 5000 DX, io ce l'ho 5000 DX, ce l'ho anche il Rose, quello con i tre strumenti, bello, quello più grosso che fa la Rose, che fa fra l'altro è perfetto così, con deposito lo uso, mi pare che quello lì va col Turner T3, se non ricordo male. E il Rose, non me lo ricordo con che microfono, a parte sul microfono da palla. Non ha molti watt, mi ricordo che non aveva granché di watt, vabbè, poi si può aprire, aumentare un pochino, ma 4 watt comunque, così. Una bella radio, è carina, anche a me piace molto esteticamente. Sicuramente gli si deve essere rovinato perché so che è un problema, è il solito indicatore dei canali che è rosso, quello lì si rovina. Come tutte queste cose, quando rimangono ferme, poi si incasinano. Diciamo che la cosa bella che ha questo Argus è che ha praticamente 6 bande, ha 6 bande, puoi aumentare e diminuire il power, e poi che cosa c'ha? C'è la regolazione del tono, vabbè, poi c'è sempre le solite cose, un po' tipo il Galaxy, è più piccolo del Saturn, ecco, come dimensioni, però c'è sempre anche lui, c'è quella forma così con le maniglie, ma è più piccolo. Ma se non ricordo male, la scheda madre è molto similare a quella del Galaxy Saturn, ecco, perché poi il riferrafa partono sempre più o meno da quella base lì, già. No, carina, beh. Io l'ho proprio completamente restaurata, questa l'avevo comprata da Walter, perché non ce l'avevo, l'avevo comprata da Walter perché lui se l'ha tenuto una che ha bellissima, proprio nuova, di queste Argus 5000. E questa qui invece c'aveva il frontale con a posto, senza danni, senza niente, però nelle parti nere aveva usato un po' maldestramente, aveva asportato il nero opaco, perché il frontale è realizzato in alluminio e poi c'ha delle parti sezionate in nero opaco. Ecco, lì nelle parti nere opache è usata maldestramente, sai, magari appoggiando la roba, buttando, la faccia così, mancavano delle parti nere. E allora io ricordo che mi servivo sempre da quel ragazzo di via Civitavecchia, che ormai ha chiuso, peccato, l'anno scorso, e con tutto il kit dei pennellini, dei vari colori, delle varie cose, mi aiutava sempre a trovare tutte le colorazioni, tutte le cose, i pennellini giusti, l'ho completamente restaurata, è ritornata perfetta. Però avevo portato anche il video su YouTube di questo lavoro, con le immagini di come il video di come era prima e poi dopo restaura, e praticamente è ritornata nuova, proprio perfetta, bellissima. E vabbè, this is the story. Sì, è una bella radio quella lì, mi piace molto. Peccato, perché ce l'avevo sotto mano, me la stavo dando 200 euro e ce l'avevo sotto mano. Era così arrivata a casa, io pensavo già che mi arrivasse, e invece lui, vabbè, ma è stato onesto, perché se me la dava così magari poi il problema l'avrei avuto io. Meno male, sono stata persona corretta. Oh, anche perché poi, vabbè, questi CB, il problema è che fai fatica a trovare qualcuno che li ripari. Non ho mai capito come mai non c'è nessuno in Italia che sia organizzato mai un tecnico che faccia, sarà perché magari poi la gente forse non li spedisce per a fare riparare, cosa ne so, a fare manutenzione, ma secondo me ci sarebbe tanto da fare. Se uno si apre un laboratorio e incomincia a riparare queste radio, secondo me fai soldi, perché non ce ne sono, in Italia sono tutti negozi, solo compravendita, poi per chi fa assistenza, chi ti ripara le radio, no, fai fatica a trovare qualcuno, ma fai fatica già con le apparecchiature radioamatoriali, fai fatica a riuscire a farti risolvere i problemi, addirittura non vogliono mai più riparare le radio se non sono dell'ultimo periodo, se non sono degli ultimi anni, non le vogliono più neanche prendere in considerazione perché non stanno lì a perdere tempo, ormai c'è la tecnica di aprire, togliere la scheda, buttarla nel cestino e mettere una scheda nuova, capite? Allora le aziende stesse non fanno ricambi, dopo un po' di anni smettono e perciò l'assistenza non è un'assistenza che va lì a controllare come conosco io, c'ho un amico che sta lì col binocolo a guardare dentro sottomarino, a vedere, a riparare, a fare giorni e giorni, mesi e mesi e mesi con una pazienza veramente più unica che rara. E no, quelli prendono, dice no, non c'è, guardi, no, oh, ce la butti, ma questa cosa costava 3.000 euro, ma ce la butti lo stesso, ormai c'è il nuovo modello e non fanno più ricassi. E ti mollano così, il video ti stai guardando, ah, fuffi. Ce l'ho nel telefono. No, già mi ha mandato il video, stava guardando il video che ho fatto tempo fa. Bello Marco, sì, stavo guardando il video tuo. Allora, a destra, vedi quel monitor di dimensioni abnormi? Quello lì è, che adesso nel video, cioè, è praticamente sto ricevendo circa un megahertz di larghezza di banda, in tutto rispetto, dell'attività di un satellite, e tutti quei segnali che vedi sono le trasmissioni che ci sono. Perciò quando devo collegarli io lì con quella radio è un ICOM, il 475, mi sposto col cursore e clicco sopra e sposta la sintonia, capito? E niente, chiamo e collego la stazione che sto sulla quale ho messo la barrettina verde del mouse. Bene, veramente uno spettacolo la sala radio tua. C'è un bel po' di lavoro e tutto può funzionare perché cioè, tieni presente che ovviamente non ci sono cose fronzoli o cose che non lì è un posto di combattimento dove sono le apparecchiature per poter fare l'attività che devi fare attività digitale, effettivo, tutto del genere, cioè, è già tutto pronto, già impostato, c'è il suo modello aereo eccetera collegato, devi fare attività con un determinato tipo di satellite e c'è l'apparato dedicato, devi fare l'altra attività con un satellite che è in VNHF con ellittici, con orbite semiellittiche eccetera e lì c'è l'altra apparecchiatura, devi fare l'apparecchiatura fonia, insomma tutto è organizzato in maniera ottimale e funzionale. Oh Gianni, già, ecco, andiamo, stavo rispondendo a un amico. Sempre questo telefono, ma ho detto, ma il tuo è il frequenzimetro del Galaxy, è fermo, proprio inchiodato, non è quando schiacci la portante, lampeggia, niente. No, è bloccato, 075. Che è questo, pensavo, insomma, molti dicono, quando schiacci, questo è fermo lì, peccato che non c'ha decimali, forse è stato appena più lungo, 27.035. Tutto perfetto, nuovo, posizionata, così una lineatina, insomma un controllo. Però poi ho girato verso un altro che mi hanno presentato, che è molto, ma molto, molto meno caro di lui, e quindi l'ho mandata lì. Tanto è vero che per fare tutto un check completo, tutto, gli ha cambiato anche alcune resistenze variabili, che dice che erano un po' vecchiettine, insomma l'ha dato una bella lineata, 50 euro mi ha preso. Beh, non ti ha preso niente, adesso ho cambiato microfono, questo che modulazione ha? Questa è bella, ormai è la prima che sta viaggiando. Ho capito. Bianconi, ma aveva 80 anni, cosa? Non avrà più voglia. Non penso che ne abbia più voglia. Ormai tutti quei radioamatori che facevano assistenza hanno smesso, sono in pensione, oppure così, magari qualche cosa ogni tanto la fanno, ma non è che, non penso che ne avranno più tanta voglia. Come che a me mi dice andare da un cliente a Cagliari che deve forse vedere dei mobili, cosa, cioè non è più gana. Cioè, sono ormai in un momento dell'attività dove se ne stanno a casa e Guidetti ha smesso, quell'altro ha smesso, quell'altro di Rovigo ha smesso lo stesso, e così sono tutti un po' diciamo nella via del tramonto. Vabbè, c'è Braga comunque che aveva cambiato il display del 756, quello è l'attività. Ma Guidetti si aveva smesso. Ma Bianconi era andato in pensione già dall'anno scorso, capito? Perché io l'avevo chiamato per i 4.40 perché stava iniziando a fare i puntini, ho detto prima che mi lasci a piedi, glielo mando e mi faccio fare le VCO. E poi ci ha detto no, guarda qui, là, io sono già oramai in pensione, faccio qualche cogettina a qualche amico di laboratorio, qui e là. E invece l'altro giorno mi ha chiamato un amico che ha mandato appunto la radio anche lui al centro assistente, ha detto ah, l'avevo mandata Gino Benicio, una chiamata a Braga. No, da Bianconi, siamo in mandito in un'invasia a radio. E invece mi ha detto no, ha ripreso, ed è di nuovo pieno di lavoro, ha detto bubù. E anche io gli ho detto la stessa cosa, gli ho detto ma come fa un uomo del genere che ha 80 anni ancora a mettersi in laboratorio, a stare lì con la lente di ingrandimento, che se sbaglia le prende fuoco tutto, ha detto vabbè, ed è sempre caro come la pietra, perché avrà 80 anni, ma i soldi sa contare però. Magari lui è proprio andata così, lui è andato in pensione, poi ha fatto un po' di mesi, ha visto che questo della pensione non ci fa granché, invece lì ogni giorno il laboratorio spicchia forte, perché fai una radio al giorno sono 150, 180, 200 euro una radio al giorno, perciò si lavora, cioè quello è un settore che non ha crisi, anzi ci sono le aziende che non sanno dove fare l'assistenza. Graziano che mi sostituito anche da poco, mi ha fatto dei lavori e al momento è uno dei pochi che sta tenendo, ma anche lui non è che ne abbia voglia, no? Prova a dire che gli mandano la radio vecchia a vedere se, che cosa ti dice. No, perché non hanno voglia di studiare, di cercare, di andare a ricercare i manuali, andare a cercare le varie cose, capito? Cose più vogliono tutti fare delle cose molto più semplici, giustamente, visto che hanno anche già una certa età, perché anche Graziano Braga, cioè Gratigri, che è giovane, avrà 70, 72 anni mi pare, una cosa del genere. Non sapevo, Marco, pensavo fosse più giovane, la voce, io la sento sempre al telefono, oddio, sento sempre una cosa, l'ho sentito un paio di volte, poi siamo messi d'accordo, ma è abbastanza onesto, nel senso che c'è a me per cambiarmi il display del 756 che lo dovevo vendere, mica potevo darlo così, mi aveva preso 150 euro, capito? 150 euro tra riparazione, viaggio, andare, tornare, bimbumba, poi il display costa 120 euro, quindi insomma. Però Bianconi mi ha detto ma no, ma non conviene. Ho detto ma perché non conviene, scusa, ma se la radio nuova solo queste righine e display è perfettamente funzionante da vetrina, è nuova non ha un graffio. Ho detto perché, come hai detto tu poco fa, ma no, non conviene, buttala via, compratene un'altra, c'ho altri modelli, ma me ne rompe le scatole. Ho detto vabbè, rifarla, fa quanto ci vuole perché per fare questo lavoro, guarda, tra display, viaggio, tutto, per me è un lavoro lavoro da 350 a 400 euro. Poneva di sentito la radio. Ho detto, vabbè, ti faccio sapere, dai, ciao Carlo, ciao, vai Barò. Lui mi ha preso 120 euro, ha comprato il display, non solo che l'abbia provato, perché tra l'altro quei display di quel colore lì, della prima serie, sono poi trovabili, però lui l'ha trovato, insomma in tutto non ho speso neanche 250 euro, e va bene, io le volevo 350, dai 350 ai 400, e vai, fatto un brutto, vai. Perché comunque Graziano forse si muove ancora, ci ha contatti, guarda, so già io quella roba, lui la prende negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti ci sono dei depositi dove accumulano apparecchiature che sono, cioè vanno nei centri, andavano e vanno nei centri di assistenza quando ci sono, non so, apparecchiature che devono essere smaltite, quello andava e recuperava, e di tutte queste radio ne hanno accatastato non si sa che una quantità importante, perché i volumi di vendita degli Stati Uniti sono pazzeschi, perciò che cosa succede? Che hanno una quantità di pezzi di ricambio, e lui si è messo in contatto, ha trovato un paio di queste fonti, perché me l'ha detto proprio lui, e attinge lì, ma non sempre riesce, perché non sempre del modello della radio vecchia che uno deve riparare hanno quel pezzettino lì, quell'interruttore, quel componente, quel display, quelle cose. In certi casi riesce, in altri no. Anche a me il Pro 2 ci ha messo le mani, me l'ha riparato, perché ha trovato, lì ha rifatto un po' di cose, ci ha lavorato e l'ha rimessa a posto, ma non è che riesce a riparare tutto no, perché comunque è tipo il 275, quelle cose così vecchie, che già cominciano a essere vecchie perché hanno già 30 anni, e magari non sempre si riesce a recuperare il ricambio che serve, in certi casi va bene, sei fortunato lo ripara e in altri no. Vai Gianni, a te la tenda. A noi quello che ci manca a Sassari è un riparatore di radio CB e radioamatoriale. È un tecnico, anche se ce l'abbiamo, però non lo fa per lavoro. Ci manca tutto a Sassari, non c'è uno che ti ripari le radio. Di quelli che riparano le radio, perché prima non le stava facendo, adesso ha ripreso, qualche cosa l'ha fatto. Guarda Gianni, che come diceva Marco, lo contraddisco, perché in Alta Italia, se mi ricordo, io ho un sacco di numeri di telefono, che Massimiliano è molto più esperto, Massimiliano Bulldog, c'è Ciccio Cobra, che ha un laboratorio da paura, modifica, fa le baracchini corti, li ripara, corti, non corti, ma ripara moltissimi baracchini, c'è un laboratorio attrezzatissimo, ed è una persona molto seria, perché io gli avevo mandato una radio addirittura, adesso non mi ricordo che radio era, ma non era un baracchino, una radio particolare, ma l'aveva messa a posto, capito? Ma l'aveva messa a posto, quindi già ci sono quelli che fanno quelle modifiche lì, tipo Mr. Bambolo, che non mi ricordo, ma Massimiliano c'ha tutti gli indirizzi, ne ha un mare, capito? Sono tutti amici suoi, e c'hanno dei bei laboratori, perché io, a me mi manda i video quando lui manda le radio, eccetera, e c'hanno veramente dei bei. Ciccio Cobra c'ha un laboratorio da paura, bellissimo, ripara soprattutto baracchini, molti, molti baracchini, capito? Molti baracchini. Sì, Marco, ma Graziano, Braga, è molto più onesto, è molto più onesto, perché io mi ricordo un'altra volta che l'avevo contattato sempre per i 4,40, che non ne voglio più sapere, i 4,40, tanto è vero che l'ho venduto e mai più ne comprerò, e ne ho avuto 9, mi pare, o 10, adesso niente. Gli avevo detto appunto quanto ci voleva, per sempre il riferimento al signor Carlo Bianconi, e mi ha detto, guarda, per fare il VCO, tra andare e tornare, la riparazione, anche perché ti metto il kit già pronto qui, là, invece, ha raccontato un po' di cose che io non ci ho capito niente, perché non capisco niente, insomma, riferirò a mettere intorno alle 150, 170 euro, ti faccio tutto. Adesso Bianconi ne vuole 250 per fare il VCO, un 4,40, cioè, ma rendete conto, c'è un 80 anni, sei già in pensione, e poi ancora non puoi fare a chiedere il doppio dei soldi, delle riparazioni che uno può fare con 100, tu lo devi fare per forza con 200, mi sembra una mezza truffa, no? Sì, ma vabbè, Carlo è sempre stato un po' stravagante anche, è sempre stato un po' stravagante come persona e così. A proposito, poveretta, è morta la moglie di Mila, di Giovanni, Giovannino Ilantoni, Italia 2 Lager, mi ricordo che andavo sempre a Milano nel negozio da lui a trovarlo, quando per lavoro andavo a Milano, poi la sera quando finivo mi andavo o da lui o da Elettroprima andavo, ma prima era riferimento era a lui, che personaggio che è. L'ho sentito qualche volta in radio io questo nominativo, ma sapevo che io non è che ho frequentato molto, però l'ho sentito nominativo. Era vecchia, anziana o giovane? No, era anziana. Il negozio Milag, Milag di Milano, era una potenza, Milag era uno dei negozi di riferimento negli anni 70, primi degli anni 80 così, sino diciamo, sino alla fine degli anni 80, dopo è cominciato ad andare male, lui ad avere problemi e poi fu nella metà degli anni 90 mi pare che era morto. Ma lui era, a parte che era un grande radioamatore, ma era un negozio attrezzato e c'aveva anche un bravo tecnico, non mi ricordo come si chiamava, però c'aveva anche un bravo tecnico. E niente, poi adesso mi sono ricordato, mi ha mandato un messaggio che era venuta magari la signora che era sempre lì in negozio molto spesso con lui. Gentilissimi, si andava a chiacchierare. E come i negozi ce ne sono mica più tanti, oramai sono rimasti 3-4 negozi fino alla festa, Tutto il mondo delle apparecchiature è finito, mentre per quanto concerne il discorso delle radio CB, probabilmente nel mondo delle CB, nel mondo di chi compra quegli apparati è più facile che ci sia ancora qualcosa, ma nel mondo del radioamatoriale i negozi di assistenza ufficiale sono ridotti ai minimi termini, e ho altri laboratori plurimarche, non ci sono più, prima ce n'era una valanga. Comunque ha ragione Gianni, è strano ma vero, è un lavoro che dove ci sarebbe da fare, però nessuno ci si cimenta, nessuno si cimenta, cioè, eppure lavoro ce n'è in quantità, tu pensa solamente in Sardegna quante persone ci sono, tutte queste se ci fosse un laboratorio accreditato che veramente lavora, ma lavora dalla mattina alla sera e fa assistenza, si rivolgerebbero lì a fare i lavori, a fare le modifiche, a riparare, però non c'è, evidentemente non so, qualcuno si è appassionato, sì certo noi abbiamo, c'è qualche amico, c'è Fabrizio che è bravissimo, si è appassionato eccetera, ma lui a livello di hobby, a lui la passione, l'hobby è sfociato così si sta specializzando sulla riparazione, ma noi stiamo parlando di chi invece deve farlo come attività, come mestiere, come attività commerciale, come laboratorio, e niente, non ce ne sono più, faccio fatica a pensare a un laboratorio, se dovessi pensare a un laboratorio di assenza, è quello che mi viene a pensare, è quello che c'è traversa di via Carlo Felice, più avanti della GBC, che cioè, vendeva televisore, riparava televisore, poi faccio fatica, a parte Vittorio, a pensare a qualcun altro, ma Vittorio ricordo che interventi sulle radio non le fa, ha le assistenze sui TV o cose del genere. Vabbè, c'era povero Bettanovello che ti ricordi di via cazzo, faceva riparazione anche lui di baracchini, roba barbarale, ma tecnicamente non ce n'è mai stata gente. Tu ti ricordi sicuramente, che l'ho detto a Gianni, non ci ricorda, ma nell'era nostra, appunto CB, quegli anni lì, quando io abitavo a Porto Torres, c'era Giuseppe Azzara, radioamatore, Aquila Solitaria, che era un bravissimo tecnico, bravissimo, te lo ricordi? Ricordami dov'era il laboratorio, non mi viene in mente adesso, così di prima chi. A casa sua lavorava lì a Fontana Vecchia, abitava lì a Porto Torres e Fontana Vecchia, dai, quella zona lì, a casa sua lavorava, c'aveva una stanza come possiamo avere noi, e aveva tutte le mani, lavorava allora direttamente con quelle poche cose che servivano, ma era un bravissimo tecnico, faceva quei VFO esterni, ad esempio, al Boni 23 canali, quello che ho io, che era di Tonino, tu Gianni te lo ricordi, a Tonino Bicchecco, no, al tassista, a Tonino Ruggio, l'ex Puggio e pure al tassista, però c'era un Boni 23 canali come questo, e proprio Giuseppe Azzara, quella solitaria, aveva fatto il VFO attaccato proprio simile al pomellone del cambio canali, l'avevo messo proprio a destra alla fine, quasi vicino alla scritta, e lui aveva questo apparecchino 23 canali che diventava una cosa allucinante, ce n'era 100 canali sotto, 100 canali sopra, insomma era una cosa favolosa da vedere, veramente. Sì, ma chi era l'amico di Ittore Burruni? L'amico di Ittore era, perché mi pare di ricordare così, adesso non mi ricordo il nominativo, ma è questa persona che sto dicendo io. Eia, bravissimo, era sempre in negozio d'attore, io abitavo lì attaccato a Ittore, no? Ittore era via Cavour, angolo via Ittore Sacchi, ero leggermente un pochino più giù, alla sinistra, e abitavo lì a casa di mamma. Sì, Giuseppe Azzara, era sempre, lavorava a Leniche, era proprio strumentista a Leniche, io l'ho conosciuto quando era l'OPT, che tra l'altro mia madre lavorava anche lì alla mensa l'OPT, poi è trattato dell'Aeronautico, e lui era sempre lì, lui e quell'altro, come si chiama, l'altro radioamatore che non l'ho più mai sentito da quando io poi sono diventato radioamatore, eccetera, vabbè. Come si chiama? Secchi, Renato Secchi, noto gambaraggio che abitava lì a Barai. Che non ha niente a che fare con Renato Secchi RAG di Sassari. Ho capito, mi ricordo, però io non ho mai fatto, cioè non ho mai riparato niente. Sì, mi ricordo benissimo questa cosa, anche perché ci trovavamo, lo trovavo da Ittore Burruni proprio, ma stiamo parlando del, cosa sarà, l'88, 88, 1988, 1989, quegli anni lì, prima degli anni 90. Ma se ti ricordi bene, io e tu siamo andati da Ittore e ti è portato via il 950, o sbaglio? No, ricordi benissimo, e quello era, ti dirò, il o è l'89 o è il 90, forse l'89, perché io nell'88 avevo preso il nominativo e l'avevo preso, cioè avevo già il nominativo da un po', Ittore l'aveva comprato ma ce l'aveva sempre nella scatola, l'avevamo aperto quando era arrivato, l'avevamo provato, poi però l'aveva rismontato, cioè smontato, staccato, rimesso nella scatola e conservato, e poi ce l'aveva sempre conservato, e io poi l'avevo contattato, se mi ha detto sì, non lo uso tanto, sempre nella scatola, non neanche come l'abbiamo messo nella scatola, è rimasto. Infatti l'avevo comprata, era nuova, l'avevamo provata con Ittore mezz'ora, un'ora, e poi l'avevamo rimesso dentro. Mi ricordo, eravamo assieme. Io non ero ancora il W0, gli siamo fatti il 92, però l'ho già scritto appunto a Porto Torres con un povero di Gabarrotta. L'uomo bionico, c'aveva tanti nominativi ma solo me lo ricordo. S0 OMH. Vabbè, OMH, sì, infatti. E quindi già tutti i santi giorni andavo lì, le gocce, l'attore, anche perché io sono nato lì, cioè ti portavo le bombe, ero sempre lì in laboratorio con lui, allora era una miniera quel posto. Poi Gianna era molto amica di mamma, della sorella mia madre, che abitava tutti ad Alghero, capito? Mi ricordo perfettamente comunque questa cosa, eravamo andati lì, avevamo Sassari, siamo scesi, avevamo il caffè, eccetera, eccetera, e avevamo entrato in quella stanzina lì a fianco dove c'era la cosa, dove avevamo le chiavi delle direttive, mi sembra le direttive le avesse già tolte. L'avevo acceso, bellissima, grande radio, è rimasto così a bocca aperta perché per me era già prima esperienza, nonostante ero già pirata, comunque avevo visto sta radio, te l'avevi presa tu e poi avevi iniziato a mettere tutti gli altri pezzi che mi sembra che l'hai versata per il 5000, completa di tutto, anche il monitor era. Sì, l'avevo, perché poi avevo comprato l'SM230, l'altoparlante esterno, ma quello dopo c'avevo anche sempre la linea del 940, che poi avevo dato 940 mio, la linea l'avevo venduta a Coso, ad Alghero, a Vanni, a Seu l'avevo, m'aveva chiamato, che la voleva comprare, io avevo già una mezz'età di fare l'upgrade e l'avevo venduta a Vanni, l'avevo venuta e se l'aveva portata via Vanni Seu, il 940 mio era bello, nuovo, l'avevo comprato lì, già te lo ricordo, da Mario, da Audioline, certo. Sì. Va bene, facciamo girare a Gianni, dai, Gianni, l'antenna a te. Sì, allora, io pensavo che avete mangiato tutti nel grammofono stasera, cantavi di Babizzato, va bene, intanto stavo ascoltando, scherzando. Vecchi ricordi. No, sai, di queste cose ci sarebbe da scrivere libri delle varie, perché poi, tra l'altro, sai, quando sei più grande, no? Poi alle volte ti dimentichi le cose, poi però magari non si sa perché, ma una sera ti viene alla memoria quel ricordo di quella situazione, di quella determinata cosa che avevi combinato e niente. Sì, molto bene, dai, va bene, ma sentiamo se Fabrizio, intanto Mario ha finito di saldare, ma c'è anche Luca qua, il mio vicino di casa, ma cosa ha fatto? Poi è partito per Alghero. No, ma Luca è dalla ragazza, Marco, non è a casa sua. No, già, perdonami, queste cose sono ricordi veramente molto molto belli, perché se mi ricordo che io vivevo in Viale Mameli in quel periodo, perché sì, l'avevo comprato anch'io, 9,40, poi c'era Bomboncino, mi sembrava preso, non so se era uscito il 4,40, il 4,30, mamma mia, io vivevo lì, si faceva un passaggio, Gianni, per farti capire, tra le cambiali e le assegni, capito, quelli girati, incassato da Tizio, che è proprio, poi si girava a Mario Lottari in modo che c'è le radio, ho capito, tutto lì. Ma sai che cosa vi volevo dire poco fa? Che oltre ai negozi mancano per la 27 le stazioni base, che a me piacevano tanto, e adesso non fanno più, quello che mi manca a me. Una stazione base bella da poter scegliere, da poter vedere come piace a me, quello mi manca. Devo andare a cercare sempre il vintage che mi piace, ma naturalmente, perché non sono tutte le radio vintage che a me piacciono. Non esistono più negozi che vendono queste cose. Prima c'era il Viale Umberto, via Principessa Maria, c'era quello delle Conce, c'era Grassi, ce ne erano pochi di negozi a Sassari di queste cose. Adesso non si trova più nulla, tutto dimenticato, sembra. E una mi ha detto, c'hai ancora il baracchino, noi ce l'abbiamo avuto tanti anni fa, una signora, parlando così, no, io stavamo parlando praticamente di queste restrizioni che ci sono quando devi stare a casa, eccetera. Io ho detto, io bene o male la compagnia ce l'ho, c'ho il lupi della radio, parlo in radio e bene o male mi passa il tempo. Lui mi ha detto, ci avete ancora il baracchino, anche mio marito ce l'aveva tanti anni fa. Poi il bello c'è, Marco, che quando ricordi queste cose, no, queste cose con cui stavate parlando con Claudio, ti rendi conto che sono passati 40 anni. È vero Gianni, hai ragione, non ci sono più perché probabilmente non c'è più interesse, ma adesso ho cambiato radio, poi mi direte come va questa. Non ci sono più, forse non c'è più mercato, la gente è più distratta dalla telefonia mobile, capito? Comprano più un telefonino, spendono 1.000 euro per comprare l'iPhone 16, 17, 19 e niente, perciò quel mondo, cioè sono rimasti solamente veramente gli appassionati a questo mondo della radio, e per il resto si è perso quell'interesse, oramai la gente sta lì col telefonino, naviga, va, guarda, fa siti, chat, video, questo, quell'altro, perciò si diverte così un po', con la radio faceva queste cose prima, perciò ecco che c'erano tanti canali, erano sempre tutti pieni di gente, perché ti chiacchierava, passavi 2 ore tranquilla la sera, e adesso non c'è più, non essendoci interesse, non ci sono utenti che comprano e non ci sono più le aziende che producono per questo tipo di utente, ecco che sono rimasti infatti veicolari, proprio perché una parte del fatturato hanno portato avanti gli autotrasportatori, solo per quello, infatti vedi che in giro sono veicolari. E ma anche gli autotrasportatori stanno usando i telefonini. A quanto ho sentito Domenico per dire, Tarzanetto mi stava dicendo che lui baracchino non ne usa più, usa il telefono direttamente. Un giorno che è venuto in negozio le ho chiesto, ma come mai non ti sento più, ti sentivamo ogni sera a Tarzanetto, andava a Olbia, quindi la compagnia, sin dove poteva diciamo che c'è poco interesse, sembra questi ridono, se ti metti l'antenna sulla macchina, quando vedo l'antenna lunga si girano tutti a ridere, a fare, tanto è vero che queste ragazzine stavano ridendo, un giorno gli ho risposto male, ho detto se l'avessi avuto dietro non l'avresti vista. Ma vabbè, si lascia fare le stronzate di qualche idiota, gli idioti ci sono sempre, non vuol dire, non vuol dire, perché comunque l'attività c'è, ecco, non c'è più quell'interesse soprattutto per l'attività della banda cittadina come c'era un tempo, per le cose che abbiamo detto. Ecco, piuttosto non ho avuto risposta in merito alla qualità della modulazione, se va bene oppure no. Marco, ne ho sentito di migliori, però è accettabile, dai. Io adesso ho cambiato un radio, lo darete manco a Curti? Sì, infatti c'è più Saturno. Io lo ascolto magnificamente bene, se riattacchi il Galaxy te ne accorgi. Sta uscendo benissimo Marco, già. No, infatti mi sembrava strano, perché questa radio so che va normalmente, però poi io, per carità, poi le cose possono andare anche male, ma questa generalmente usciva bene. C'è un Turner più 3 e questa è l'RS TRC 457 della Realistic, questa è il base che fra l'altro ho sempre usato, è una delle radio che uso sempre molto più di tante altre, perché è sempre andata molto bene, è un po' tipo il 440 come dimensione, più grande del 440, di colore verde militare con il box dell'altoparlante sul frontale, un base americano. Beh, in effetti ha ragione Claudio, ti sento un po' saturo e con una modulazione che non è proprio bella, chiara, così come generalmente quando usi l'eco e quando esci col Galaxy amplificato, ma senza nessun altro effetto, che vai molto bene. Questo qua è il coso, è l'Intec 497 e base. Vabbè, no, non è un apparecchio super, dai, è un base così che a me mi piace effettivamente, però come radio non è che dia più di tanto. Infatti confermo, come radio non è che è delle migliori, cioè molto miglior Galaxy. No, io lo sto usando senza eco, Marco, col Turner più 3B, nero, Mickey Gain al massimo della radio e il microfono ce l'ho a 3, va molto bene. Sì, Realistic, no, stai andando benissimo, ti ascolto, forse meglio di tutti i passaggi che hai fatto, questa è la migliore, ma anche gli altri erano molto belle, questa mi piace più perché è più corposa, ecco perché Gianni gli ho detto cambia nuovo radio e rivedi un pochino se lo ascolti meglio Marco, perché qua con il Galaxy sta arrivando veramente molto molto bene. Ciao Luca, ti sei ripreso, va? Oh, comunque, io vi sento, non vi sento, sono qua. Chi è? Marco Scorpio, il numero del monte, sì, a casa, lì ti prendo a... Tutto a frusci, sei Marco, tutto a frusci. No, Marco, sei a fischi adesso. Ah, è vero, scusa, mi ero dimenticato una cosa, che questo qui non digerisce, il 747, non lo digerisce, non c'è verso, non lo digerisce, adesso ho provato a accenderlo, così mi ero dimenticato, non lo digerisce, tutte le altre che ho lo digeriscono alla grande, no, ma addirittura non c'è nessun cambiamento di modulazione, questo qui non glielo far vedere perché non lo può, cioè, lo odia proprio, lo odia. Quando gli attacco il 747 e comincia a fischiare tutti i cani, i gatti, e arrivano tutti qua. È successo anche a me, però colpa mia, perché ho fatto uno spezzone da 4 metri di un cavo del cacchio e quindi mi faceva un rientro. Allora ho cambiato cavo, ho messo lo spezzone di HMI da una scrivania all'altra e non lo fa più. Capito? Vabbè, lì è stata colpa mia, avevo quello, ho messo quello, però poi mi sono messo un po' in carreggiata. Luca, peggio per te, se non ascolti, non ascolti. Cazzo, cioè siete tutti attaccati, uno si mette nel canale 12 a fare quel show, uno non riesce a capire queste cose, e ne di canali, Vabbè, è una mia puntiglia, vabbè, non c'è problema, dai. Io non so di quelli che... Vi ascolto o non vi ascolto, dai, non ci posso fare niente. Ah, non mi ero accorto io, non sentivo nessuno splatter, ma perché c'è qualcuno nel canale vicino? 12. Devo dire che ha ragione Claudio in questa circostanza, perché cavolo, sono 40 canali, non c'è mai nessuno, Mettiti su un canale, se c'è questo, spostati magari di un po' di canale, gira un po' più in là, ma io non rilevo nessuno splatter, per me non c'era nessuna modulazione, proprio zero, lo strumento scende a zero e non mi dava nessun schiaff tipico del disturbo di un segnale riacente. Tu invece Claudio lo avevi sentito? No, da poco fa mi ha detto Luca che c'era un questione a canale 12 e tra l'altro ho passato vicino a lui e quindi non sentiva perché l'ho rilanciato poc'anzi, forse quando tu stavi cambiando radio. E mi ha mandato WhatsApp e mi ha detto appunto ciao splatter, non vi sento. Tutto qua, va bene. E cosa stavo dicendo a Gianni? Hai ricambiato la radio Gianni, rimetti il Galaxy, dai retta a me. Ascolta bene la modulazione di Marco col Galaxy che è splendida, è favolosa, va bene. No, adesso ho messo il 3009, dai. Hanno diritto di girare tutte, le faccio girare tutte stasera, così almeno non ci penso più, le faccio girare tutte qua. Io ogni tanto le faccio girare, perché ho la scrivania che praticamente c'ha i piedi e la cerniera, passo, cadono tutte per terra, poi ritiro su e girano. Oh, già, basta, non le fai girare a noi, Ma io non ho sentito nessuno splatter, Luca, eppure suppongo che sia vicino qua, anche a casa mia. A me è una fucilata. Già, chiaro, siamo in miglia 2, però sento un tonnello io. Sì, sei una marina, beh certo, no, al monte del 3009 non ne prende colpi. Oh, ma non i biglia blu, zero. Ma col Galaxy già, non sento un tonnello io col Galaxy, per quello l'ho messo come radio primaria. Il Galaxy devono essere proprio pompando forte per vedere gli strati, ma basta che abbassi appena, il refreghino non senti più nulla. No, è una radio filtrata, bellissima, a me il Galaxy piace tanto. Ogni tanto le faccio girare, questo qui è il 3009 con la static. Ecco, io adesso ho fatto una prova, no? Per vedere un po' che cosa succedeva qui da me con questa radio. Cut. gestito degli apparati CB eccetera eccetera, poi non è stato fatto nulla. Sarebbe stato bello chi aveva da vendere, mettere in vendita gli apparati eccetera eccetera, ma insomma non si è mai compreso. No, ma io dico anche nuovi, capito? Delle basi nuove, anche diciamo più all'avanguardia eccetera eccetera, e con bimbini dai, con manopole grosse, come piacciono a me, dai. A me piacciono quelli che hanno le manopole di canali tipo questo, così. E tipo i legacci, tipo il DAC, cosa ti posso dire, lo standard, lo stesso così. C'è un bel manopolone centrale, il Midian del 574, molto bello lo stesso, una bella radio anche quello, però i manopoloni più grossi sono quello del DAC, che è ancora più grande di quello del Galaxy, lo standard, che è grande così lo stesso, eccetera, standard introvabile lo stesso. Va bene Gianni, va bene, e i baracchini sono baracchini e le radio sono radio, bisogna che ci abituiamo a questo. Siamo appassionati, stiamo portando avanti questa cosa piano piano, e vabbè, io qualche altra sicuramente la prenderò, poi basta, perché già qua ci vuole il ripiano, e questa base è 2 metri 2 metri 30 2 metri 20 per 90 ed è già tutta piena, anche perché ogni radio ce l'hai visto, c'è il suo microfono di tavola, quindi alla fine mi sta prendendo un bel riposto. Ho ripiato l'altro pezzo, la L, e faccio la L più una U, faccio praticamente, la riempio tutta, se no mi fermo, c'è la biglielucci. Ma tu ce l'hai, i pezzi del ripiano che tu ce l'hai a casa? Allora, io adesso sono solo sulla base, quella muro dove c'era la, praticamente tutti gli HF, lì ho fatto tutto vintage base. Poi c'avevo un'altra scrivania piccolina e lì ho messo le tre radio che mi sono rimaste HF, basta, ma quella la tolgo perché appena vendo quelle tre poi praticamente non ho più niente, niente, niente, e quindi mi dedico solo ai baracchini che sono questa base qui. Però se voglio continuare a comprare baracchini base devo aggiungere l'altro pezzo di questa che era praticamente una L, l'ho messa sui mansarda, capito? E quindi allora ce ne stanno parecchi. Non ce ne stanno più. Ah, oh, yeah, per carità, cazzo. La c'è lì. Ma sono su 12, guarda cosa c'è. Io non sento nessuno, boh. Aspetta che qua. Ah, fruttidini. Vabbè. Poi che qualcuno non si lamenti. Preso questi di cama. Non me ne arrivi né splatta, già sento tutto io. Gianni, devo che di poco state facendo. Ma no, se lascia l'ho parlato e tu non hai avuto risposta, non so che ci sia di altro. L'altro c'è attaccata a Luca e sta facendo le prove con quella radio che ha, e sicuramente ha problemi al microfono e sta facendo coccio con Giulio nel 12, ma cioè, se c'è Luca in coccio sul 10 è chiaro che Luca non sente niente. Vabbè, sono problemi di Luca, se la vedrà lui, a me non mi interessa, io non ha giusto. Io lo sento male a Giulio, deve essere che sta strappando. Guarda, io sono qua sul 10, non vado ad ascoltare, non mi interessa. Sono qua, l'importante è che poi non ci siano problemi, lamentele e bingo bongo. Io ho messo fuori da queste cose, non me ne ha fatti nulla. Prego, avanti, meno male, certo che per entrare bisogna bussare, lasciami il telefono già, anche di Claudio, così mi chiamo prima. Ehi, se vuoi te lo lascio, non c'è nessun problema, anche qua. A chi non virai, ho venduto direi. Non più, vabbè, ho cambiato il telefono. Sì, ci sono, ma sono incognito. Vado a vedere i cazzi degli altri, ma i miei non li vede nessuno. È quello che mi piaceva, ragazzi. ci sono, ma mi hanno insegnato a fare un giochetto, quindi ci sono. Io vedo tutto, ma no. Di me non stai tranquillo che non vedo niente. Forse vedete un microfono, c'è una foto con un MC60, ma non c'è nessun approccio. Mi arrivano, guarda, ho fatto addirittura il trasferimento sul telefonino. Proprio poco fa stavo guardando Claudio hai 12 notifiche di Facebook e domanda amicizia tu domanda. Capo, capo. Niente grazie, io sì. Poi se non sapete io entro prossimamente per salutarlo. Telefono che ho fatto. Bambine, dai. Amici miei, buon fine settimana. Ehi, ciao Fortuna, buon fine settimana anche a te, ci sentiamo. Buona serata. Ciao Lucky, dai, meno male si è abbassato il vento che oggi veramente dà paura, raffiche allucinanti. Raffiche di vento allucinanti, vabbè. Io sono salito l'altro giorno, c'è una bella giornata, a vedere sul tetto era tutto regolare, vabbè, antenne, non fai più nulla ormai, quindi. Già sono sereno e tranquillo, se fossero state le direttive le avrei trovate alla Ginara già. Oh, vabbè, no, anche io ho visto che c'erano delle raffiche, l'antenna si piegava, però grazie a Dio sta lavorando bene, dai. Beh, già va bene. No, io sono uscito a fare delle commissioni, ho sollevato la testa, ho visto la mantova era bella dritta, si spostava leggermente la punta, ma no, nessun problema, no. Ce ne vogliono delle raffiche alla panni antenna, penso. Tipo Bora, forse non basta neanche la Bora di Trieste per la panni di Sant'Enna, per come ha montato. Va bene, cosa ti dovevo dire? Un'altra cosa, non mi ricordo. No, ma non a vendere già, un mercatino fatto da quelli che hanno appunto la collezione, insomma come me, come tanti altri, solo per esposizione, per far vedere la gente, appunto le radio, le vecchie radio degli anni che furono, eccetera. Io ne ho molto bene, adesso vedi questa militare, è una bella cosa da mettere in esposizione, infatti se dovessero fare nuovamente il museo della radio a Iteri, gliela do a Antonio questa, la faccio mettere in esposizione perché è molto rara, capito? È una radio militare degli anni che furono, perfettamente funzionante, giusto per far vedere il sistema di che c'era un tempo, un periodo, capito? Ehi, vabbè, comunque io dico la verità, come base io mi farei tutto qualche base, radio base, perché mi piacciono molto, però devono essere radio che mi piacciono, quindi se tu mi dai il Midland io ti do l'Inter che va bene. No, ma ci sto manco pensando già. Quell'Inter che per venire qua deve essere normale, luci tutte bianche, tutte, capito? Adesso io non ho una radio, dice guarda questo Galaxy, se tu vedi quanto è bello, ma sai perché è bello? Perché lo vedo. L'unica cosa che gli hanno fatto a questo Galaxy, ed è una cosa normalissima che si fa, hanno tolto quelle lampadinette gialle che sono molto scarse e hanno messo due LED bianchi, bellissimi, proprio la luce è bella bianca ed è perfetta. A me le radio così piace, così come l'hai fatta tu già non mi piace, assolutamente. Deve essere originale la radio. Io ho i miei cosi, condivido le tue, ma io non ne prendo radio così, capito? La voglio originale, sto Midland che c'ho io è nuovo di pacca ed è originale, luci, tutto originale, perfetto, è una bellissima radio, c'è una ricezione, una trasmissione, infatti dopo, perché è collegata, posso solo attaccarci il cavo dell'antenna, mi faccio due passaggi con quella perché sto modulando troppo col Galaxy, non vorrei che sia quella, il Midland, l'Inuit, anche il Pony, che c'è il microfono a tavolo, quella che ho preso da te, lo stesso è funzionato al 100%, le sto un po' tutti abbandonando, il DAC è già qualche settimana spenta da quando ho preso questa, sono sempre con questa qui, capito? Allora, questa radio qua, l'Inuit, che c'ha 6 lampadine, e ce n'era la metà che erano fulminate, quindi una volta che c'ero le ho messe blu, mi piacevano di più a me, no, vabbè. Quello lì comunque non ci vuole nulla, c'è un po' 4 lampadini così a lui. Vabbè, ne hai messo tu blu, bastava mettere le bianche. È molto importante quello, Gianni, capito? Io ho il pace, il 2003B base, che aveva la lampadina celeste lo stesso. La prima cosa che ho fatto quando me l'ho fatta è di togli quella lampadina, perché se no non te ne compro. Mettimi la lampadina sua originale, mi ha messo la lampadina sua originale, che tra l'altro è anche un po' particolare, perché c'è un innesto particolare, la posizione, capito? E così, e me l'ha data così. No, per carità, se a te piace le luci blu, io, tu immaginate il DAC, con la strumentazione cominciato ad avere strumenti favolosi ed è facilissimo perché tutto il tappo dello strumento è sotto, c'è la lampadinetta a siluro, facendola tutta blu, è favolosa, ma no, non va bene, pure rosse, lampadine rosse come la strumentazione che ha tutta rossa, capito? Però no, non mi va, lascio tutte così, ho le radio, già va bene. Vabbè. Non c'è rimasto altro nessuno qua su 10? Mi sembra proprio di no, c'era Luca. Vuoi vedere che mi faccio ascoltare da Luca? Aspetta che vado vicino alla finestra a accendere il pulsante. Ecco qua. Allora abbiamo messo a 10 watt, 8 watt, 7 watt, top. 7 watt agganciato. Oppala, cambia la modulazione. No, è più alta. Gianni, è sparito, sì, già. Gianni, ecco, ho detto che ho agganciato, vediamo un po' se mi ascolta Luca, la modulazione è sempre buona. Sì, buona, normale. Ma adesso abbiamo un po' di potenza, vediamo un po'. Oh, Luca, mi ascolti? Luca Perivella, e io come sto dicendo? Saturo, sì, per me. Sempre Saturno. Sì. Questo quell'aggancio, ma sono in sesta marcia. Ora. E la mazza te ne vai. Quasi 600 so. Però vabbè, ho abbassato la potenza. 650 to. Gianni. Io stavo cenando, dove ti hai chiamato qua? Ehi, ti ho detto, mi senti adesso anche se c'hai splatter, com'è? Sì. Insomma, così, adesso ti sento. Io ho fatto la pizza qua, buona, questa la, come si chiama, la base da lo spin, e poi sono secondimenti, buona veramente qua. Io lo stesso, la prendo la base da lo spin, ho la copa che è quella della Buitoni, la facciamo a casa, prendo due o tre basi e le condiamo e facciamo, sono molto buone. Ehi, a me bussasci due, cla. Ma carità. Lascialo, fate meglio. Lascialo, fate meglio. Ehi, Luia, tutti si credi, a me non lo va, lasciamo perdere. Non come, io non sono un tecnico, però. A me mai inteso i scendimari, mai. Ma chi? A capota, vabbè, questo qua mi ne scappa. Solo di solito io lo sco bene. Vabbè, facciamo le cose come stanno, lasciamo le cose come stanno, già va bene lo stesso. Avanti Gianni. Ia. Luca, guarda, adesso provo a attaccare, a vedere come senti con questo apparecchio. Guarda, sto attaccando, guarda come va, se è satura. Ma manda laterale. Cosa ne so, Gianni? Io non sento nessuno. Io adesso li ho sentiti, bassi, ma li ho sentiti. No, io non sento nessuno. Non sento mancato me dopo il Galaxy, figurati. Ma manco col Midland, non sento niente io. Io prendevo colpi solo con l'ora 48 e buco. Vabbè, adesso se ho un po' attenuato sento il coso, il filtro, là. Non c'era il filtro, là. Adesso già vi sento bene. E io. Luca, ascolti il radio lì. Saturo sei già, sei sul crema, sei saturo. Gava. Se saturo qua, figurati se non è saturo lì. Vabbè, io continuo a mangiarmi la pizza, buona, città veramente buona. Sì, qualche altro passaggio facciamo con Gianni, dai, poi sono già le 7:30, fra un po' mi preparo. Faccio una passeggiatina con Peppetto. Io stasera mi faccio un fritto di pesce, me l'ho comprato. Me ne imparo bene. E con la pastella e me ne frigo. C'ho calamari, pesci da friggere, da. Ehi, ho sganciato di nuovo, era giusto una prova, già va bene così. No, fritto stanotte niente, no. Ce l'abbiamo domani, mi sembra. Domani o domenica c'è il fritto, perché Mario infatti ha recuperato un po' di